scales. Chiudi quella porta se non vuoi casino. Chiudi quella porta che qua dietro c'è un casino. La gente fa avanti e indietro come fosse la stazione. Beh, fatti un giro alla stazione. Purifico la mia anima, un bagno e dentro al Gange. La mia gente ha gli occhi rossi come se ha smesso di piangere. Il latte versato come il sangue di Dio. Tovagliolo, chiazze d'olio, tiro su quel petrolio. Questi rapper parlano di strada come avessero un portafoglio. Quella porta già sento odore di vomito. Non me ne frega un cazzo, voglio un grosso portafoglio per comprarmi il tuo orgoglio e il tuo orologio. Tony ti stacca la testa e ci fa l'orologio. Sto con mio fratello, sai, e fumo tutto il giorno. E chiudi quella porta se non vuoi tutto il branco attorno. Quando entri nel posto, chiudi quella porta. Sto fumando tanta erba che vedo la gente morta. Sto di fretta a fare i soldi, prendo la via più corta. E dai rioni ci allarghiamo e ci prendiamo tutta Roma. Quando entri nel posto, chiudi quella porta. Sto fumando tanta erba che vedo la gente morta. Sto di fretta a fare i soldi, prendo la via più corta. E dai rioni ci allarghiamo e ci prendiamo tutta Roma. Chiudi la porta quando entri, spengi il telefonino. Se le guardie mi fermano, lo sai che faccio l'autistico. Problemi con la gang? Non te lo consiglio, macchie rosse sul salotto, avrei dovuto far l'artistico. Il mio amico sposta chi in fretta, vedi e poi non vedi. Chiamami Darkside baby e ti prego ricorda il baby. Voglio incassare soldi come un banco, ma tanti da metterli dentro a un sacco. Rapper sotto scacco, giovane ma posso cambiare il mercato. E se non parli di soldi davvero non mi frega un cazzo. Sto fumando questa oggi, non mi fa capire un cazzo. Veloce come un colpo in testa, non ti fa sentire un cazzo. Devo incassare e ingrassare, gli squali non mangiano plankton. Non ti fidare delle persone che hai a fianco. Mi sveglio la mattina, piscio, mi lavo le mani, mi inginocchio e prego Dio per sti contanti. Dai.